La dieta la comincio da lunedì, è la frase che tutti noi ripetiamo. Sentiamo l'esigenza di sgonfiarci un po', di perdere qualche chilo. Le diete possibili sono tantissime, la dieta iperproteica, quella di solo minestrone, quella chetogenica, senza carboidrati. Tutte promettono rapide perdite di peso. Allora, quale dieta scegliere? Nel breve periodo possiamo scegliere quella che più ci piace, quella che ci fa consumare meno calorie. Quindi se ci piace saltare la cena, possiamo saltare la cena. Smettiamo di mangiare pane e pasta per 2-3 giorni, va benissimo. Ma nel lungo periodo le cose cambiano, perché la dieta non può essere la stessa. Deve essere una dieta equilibrata, basata sul modello alimentare mediterraneo, ma ritagliata sulle esigenze di ognuno di noi. I consigli, in linea di massima? In linea di massima i consigli sono di non escludere nessun tipo di alimento dalla propria alimentazione, ma di privilegiare 4 gruppi di alimenti che sono sostanzialmente la frutta e la verdura è la base, cereali integrali e legumi. Questo ci riempie la pancia e ci aumenta la sazietà. La dieta si fa contando i passi, voi nutrizionisti ripetete, che significa? Sì, è uno slogan che serve a fare capire che bisogna fare attività fisica, in qualsiasi modo lo facciamo va bene, preferibilmente facciamola all'aria aperta sotto la luce del sole, che così sintetizziamo anche vitamina D.